Sono le 20 ora locale, pari alle 18 ora di Greenwich, qui il Cairo, la radiodiffusione della Repubblica Araba d'Egitto, che trasmette sulla frequenza di 6.270 kHz, pari alla lunghezza di onde corte di 49 metri. Programma in lingua italiana a destinazione dell'Europa centrale. Thank you. Da Radio Cairo vi presentiamo. ونخليها على مكان الدول. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد فثراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي فثراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي بلدي أحببتك يا بلدي بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد فصراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي بلدي أحببتك يا بلدي وطني والله رعى وطني حرا في الأهل وفي السكن وطني والله رعى وطني حرا في الأهل وفي السكن ماضني يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد ماضني يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد ماضني يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد وطني والله رعى وطني حرا في الآل وفي السكن وطني والله رعى وطني حرا في الآل. Da Radio Cairo ora in onda lo spazio giornalistico. Iniziamo il nostro spazio giornalistico con il notiziario e i titoli delle principali notizie. Mubarak ordina inchiesta indipendente su violenze. Il comitato incaricato degli emendamenti costituzionali inizia i suoi lavori oggi. Manifestazione nello Yemen, un ferito e 12 arresti. Apertura di colloqui militari fra Seul e Pyongyang. Passiamo ora alle notizie in dettaglio. Il presidente Hosni Mubarak ha ordinato un'inchiesta indipendente sulle violenze di mercoledì scorso sulla piazza Tahrir, dove scontri sanguinosi hanno opposto sostenitori e oppositori del regime. lo ha riferito l'agenzia ufficiale MENA. Il presidente Mubarak ha dato disposizioni per la creazione di una commissione di inchiesta indipendente e imparziale composta da figure conosciute per la loro onestà e credibilità. La commissione indagherà sulle terribili e inaccettabili violazioni a danno di tanti manifestanti, vittime innocenti. Il vicepresidente Omar Suleiman ha dichiarato che il comitato incaricato di studiare gli emendamenti di alcuni articoli della Costituzione inizierà oggi i suoi lavori. Ha inoltre riferito che la commissione d'inchiesta sulle violenze avvenute a Piazza Tahrir inizierà i suoi lavori entro alcuni giorni. Intanto si è aperto un nuovo round di colloqui tra Suleiman e i rappresentanti dell'opposizione. Suleiman incontrerà anche i redattori in capo dei giornali nazionali indipendenti e quelli appartenenti ai partiti politici per passare in rassegna i recenti sviluppi della crisi in Egitto e le prospettive della sua soluzione. Migliaia di persone sono sempre presenti sulla grande piazza al-Tahrir del Cairo. Da parte loro, le forze armate hanno intensificato la loro esistenza per garantire la sicurezza ai manifestanti. La borsa del Cairo, chiusa dallo scorso 30 gennaio a causa delle manifestazioni, riaprirà domenica 13 febbraio. Lo ha reso noto il direttore delle comunicazioni della borsa, Hisham Turk. La borsa era chiusa con un abbassamento di oltre il 10%. Il ministro degli affari esteri Ahmed Abulghait ha inviato un messaggio al suo omologo turco Ahmed Davutoglu vertente sulla situazione interna in Egitto. Il messaggio è stato consegnato dall'ambasciatore egiziano in Turchia Abdelrahman Salah. L'ambasciatore d'Egitto in Turchia Abdelrahman Salah ha affermato che il popolo egiziano rifiuta ogni ingerenza estera negli affari interni del paese. Egli ha reiterato ugualmente che il popolo egiziano è l'unico a determinare il suo destino. Il ministro delle finanze kuwaitiane Mustafa Shameli ha smentito che il governo non intende rivedere i suoi investimenti in Egitto. Egli ha assicurato che gli ultimi avvenimenti non cambieranno le cose, aggiungendo che l'Egitto rimarrà un paese che attira gli investimenti. D'altra parte, dei grandi investitori sauditi hanno assicurato che l'Egitto rappresenta una profondità strategica per i loro investimenti, malgrado la crisi attuale, sottolineando che non lasceranno mai il mercato egiziano. L'ambasciata del Pakistan al Cairo ha affermato che la vita ha ripreso presto la sua normalità in Egitto, soprattutto dopo la ripresa delle istituzioni finanziarie. Essa ha sottolineato ugualmente che non è necessario evacuare attualmente i cittadini pakistani residenti in Egitto. La polizia yemenita ha arrestato 12 manifestanti dopo aver sparato alcuni colpi d'avvertimento nel tentativo di disperdere la folla dei manifestanti nella città meridionale di Aden. Lo riferiscono alcuni testimoni, aggiungendo che un militante del movimento meridionale è rimasto ferito. Decine di sostenitori del movimento secessionista si sono riuniti fin dalla tarda serata di ieri nel distretto al-Mansura per protestare contro il regime del presidente Ali Abdel Saleh e per chiedere la secessione dal sud. Alcuni manifestanti hanno dato fuoco ad alcune vetture, mentre la polizia ha lanciato gas lacrimogeni e sparato alcuni colpi d'arma da fuoco in aria per disperdere la folla. In Arabia Saudita, un gruppo saudita conduce una campagna su Facebook per delle riforme politiche, sociali ed economiche nel regno, reclamando soprattutto l'instaurazione di una monarchia costituzionale. Il gruppo, che conta quasi 2.000 membri oggi, è intitolato «Il popolo vuole la riforma del regime». Il testo appella ugualmente alla tenuta delle elezioni legislative nel regno. Il ministro degli affari esteri britannico William Hague è arrivato oggi in Tunisia, prima tappa di una tournée in Africa del Nord e in Medio Oriente, lo ha annunciato il Foreign Office in un comunicato. Hague, che si recherà in 5 paesi, incontrerà a Tunisi dei responsabili governativi, tra cui il primo ministro Mohamed Ghannouchi. Gli Stati Uniti riconosceranno l'indipendenza del Sud Sudan a luglio, quando entrerà in vigore. Lo ha annunciato il presidente americano Barack Obama dopo che è stata resa nota la vittoria del sì dal referendum sulla secessione. Mi congratulo con il popolo del Sud Sudan, ha affermato Obama, aggiungendo di essere lieto di annunciare l'intenzione degli Stati Uniti di riconoscere formalmente il Sud Sudan come uno Stato sovrano e indipendente nel prossimo luglio. Si sono aperti oggi i primi colloqui fra militari delle due Coree da quando forze di Pyongyang hanno bombardato un'isola sudcoreana a novembre. L'incontro a livello di colonnelli si svolge in un villaggio smilitarizzato al confine fra le due Coree e servirà a preparare un successivo incontro a livello più alto per ridurre le tensioni fra i due paesi. Una petroliera italiana, la Savina Caylin, è stata attaccata e sequestrata da pirati mentre era in navigazione nell'Oceano Indiano. Durante l'attacco sono stati esplosi vari colpi di mitra e razzi, ma non risulta ci siano feriti. La fregata della Marina Militare Zeffiro, che si trova in Oceano Indiano, si sta dirigendo nell'area dove è avvenuto l'attacco, che raggiungerà in un paio di giorni, essendo distante circa 500 miglia. Al-Qaeda sarà sconfitta e i talebani non riprenderanno mai il potere in Afghanistan, lo ha detto il presidente americano Barack Obama. Posso affermare con fiducia che le nostre truppe hanno realizzato un lavoro straordinario e che oggi sono all'offensiva, ha spiegato il presidente americano in un'intervista alla Fox. I talebani non riprenderanno l'Afghanistan, ha detto ancora Obama, anche se continueranno a giocare un ruolo nel paese. Il partito del leader democratico Aung San Suu Kyi ha detto oggi di volere dei colloqui con le nazioni occidentali su come modificare le sanzioni sul Myanmar, un segnale che denota una maggiore flessibilità se la giunta al potere fa delle concessioni. Il partito di Suu Kyi, National League for Democracy, ha aggiunto che le linee di investimenti responsabili possono alleviare le sofferenze economiche di un paese impoverito ma ricco di risorse nel sud-est asiatico. In Costa d'Avorio nuovi scontri sono scoppiati ad Obo, sobborgo alla periferia settentrionale di Abidjan, tra forze di sicurezza fedeli al presidente uscente Laurent Gbagbo e sostenitori del suo avversario Alassane Ouattara, unico candidato internazionalmente riconosciuto quale legittimo vincitore del ballottaggio presidenziale del 28 novembre scorso. Per il quarto giorno consecutivo, truppe di Cambogia e Thailandia si sono affrontate sul confine tra i due paesi in una battaglia protrattasi per diverse ore e persino più intensa delle precedenti, con massiccio impiego di artiglierie e mitragliatrici pesanti da entrambe le parti. Il leader dei ribelli ceceni, Doku Umarov, ha rivendicato l'attentato all'aeroporto principale di Mosca, che a gennaio uccise 36 persone. Questa operazione è stata condotta su mio ordine, ha detto Umarov, pronunciando che ci saranno altre sanguinose azioni nella strategia che punta a creare uno Stato ceceno indipendente nella regione caucasica della Russia. Da Radio Cairo avete appena ascoltato il notiziario. Da Radio Cairo va in onda commento politico. Come si può evitare il caos? La transizione politica in Egitto sarà rapida grazie all'impegno del Parlamento egiziano e del vicepresidente Omar Suleiman a portare avanti la riforma elettorale e quella costituzionale e arrivare al voto a agosto o settembre. In questo modo si può evitare il caos e non, come qualcuno auspica anche in Italia, se Hosni Mubarak andasse via domani mattina e se andasse a votare la prossima settimana. Così il ministro degli esteri Franco Frattini ha delineato la posizione dell'Italia sulla roadmap egiziana per uscire dalla crisi. Una posizione che ricalca quella del premier Silvio Berlusconi, che a margine del Consiglio dell'Unione Europea di venerdì, mentre i 27 invocavano una transizione immediata, aveva auspicato per l'Egitto un passaggio a un sistema più democratico senza rotture con Mubarak, considerato da tutto l'Occidente l'uomo più saggio in Medio Oriente. Il rischio che si correrebbe altrimenti, ha ribadito anche il Presidente del Consiglio, è che le proteste della popolazione vengano incanalate verso le posizioni dell'integralismo islamico e del rigetto dei valori dell'Occidente. un rischio evocato anche da Frattini, che per questo ha apprezzato l'avvio del dialogo tra Soleimani e l'opposizione, in particolare con la fazione islamista radicale dei Fratelli Musulmani. «Meglio coinvolgerla che lasciarla fomentare il malcontento della piazza», ha detto il titolare della Farnesina. La strategia egiziana per evitare quel caos temuto da Frattini, ma anche dallo stesso Mubarak, che 3 giorni fa ha detto in un'intervista «se potessi mi dimetterei, ma temo il caos», è stata esposta dal ministro degli esteri direttamente da Suleiman e dal segretario della Lega Araba Amr Musa. «L'idea», ha spiegato Frattini, «è di una legge elettorale nuova che autorizzi i partiti politici che seguono un metodo democratico a correre per le prossime elezioni. La legge la farà il Parlamento, che sospenderà i suoi lavori fino ad agosto per concentrarsi sulla legge elettorale e sulla riforma costituzionale». La cosa più importante, ha poi sottolineato il titolare della Farnesina, è che il vicepresidente Suleiman intenda proporre un referendum popolare che per la prima volta darebbe al popolo egiziano la possibilità di confermare o meno la nuova Costituzione. Si tratta dunque di una prima risposta a quella richiesta di riforme concrete, ribadita anche dagli Stati Uniti, insieme a quella di una transizione ordinata subito. La posizione dell'amministrazione Obama a riguardo è chiara. La Casa Bianca ha infatti già derubricato a posizione personale quella dell'ormai ex inviato in Egitto Frank Wisner, secondo cui Mubarak sarebbe dovuto rimanere per pilotare il cambiamento come garanzia di stabilità. Da Radio Cairo avete appena ascoltato Commento Politico a cura di Ebtisem Abdelmegid, presentato da Alessia Bolma. Va in onda rassegna stampa e sfoglieremo insieme le diverse pagine della stampa egiziana leggendo cosa ha pubblicato sulla scena egiziana. Cominciamo con la rivista settimanale Akhir Sa'a e leggiamo: la vita in Egitto ritorna gradualmente alla normalità, la scena come al seguente: riaprono le banche, i copti pregano in piazza, incontro sulle Suleiman opposizione, si farà un comitato per le riforme costituzionali entro marzo, stop a limitazioni a web e media, parti in dialogo concordi su transizione pacifica. Da piazza Tahrir dicono restiamo fino ad accoglimento richieste. Dimissioni di Mubarak, revoca dello stato d'emergenza, formazione governo unità nazionale. Passiamo ora, carissimi amici, al quotidiano Al-Akhbar e leggiamo: croce e Corano uniti, chi li regge urla i medesimi slogan da piazza Tahrir. Piazza Tahrir è traboccante di folla anche nel 15° giorno di manifestazioni, il primo nel quale il Cairo ha provato a tornare almeno in parte alla normalità con l'apertura di banche e uffici. Cristiani, copti e musulmani hanno pregato nella stessa piazza e scandito gli stessi cori, dal quale non è arrivato nessun segnale. Passiamo ora, carissimi amici, al quotidiano Al-Ahram e leggiamo: non voglio parlare di me, afferma l'imam Taha dell'Università Islamica Al-Azhar, ma qualcosa la voglio dire. Dormo qui da diversi giorni e spesso uno dei miei fratelli cristiani mi ha coperto durante la notte. Ho visto cose meravigliose. La sola cosa buona che ha fatto è mostrare quanto siano uniti gli egiziani. Passiamo ora, carissimi amici, al quotidiano Al-Masri Al-Yawm e leggiamo: appello del Papa per l'Egitto. In questi giorni seguo con attenzione la delicata situazione della cara nazione egiziana. Chiedo a Dio che quella terra, benedetta dalla presenza della Santa Famiglia, ritrovi la tranquillità e la pacifica convivenza nell'impegno condiviso per il bene comune. Da Radio Cairo vi presentiamo il riepilogo delle principali notizie. Mubarak ordina inchiesta indipendente su violenze. Il comitato incaricato degli emendamenti costituzionali inizia i suoi lavori oggi. Manifestazione nello Yemen, un ferito e 12 arresti. Apertura di colloqui militari fra Seul e Pyongyang. Thank you. حبك قلبي وطني يا وطني الشعب العربي وطني يا مالك حبك قلبي وطني يا وطني الشعب العربي اللي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة انت كبير واكبر كتير من الوجود كله من الخلود كله يا وطني وطني حبيبي الوطن نفس الغنوة الأجمل وحدة وحدة كل الشعب العربي. Da Radio Cairo vi presentiamo Il Nilo, fonte di vita. Programma a cura del dottor Mahmoud Maher Taha. O Nilo, padre della vita, gloria a te. Quando le tue acque risalgono, quando i tuoi doni scendono fino a noi, la terra freme di gioia, tutto rinasce, tutto riceve nuova linfa. E se le tue acque calano, anche gli dèi si disperano. Gli uomini divengono più effimeri delle loro ombre. O Nilo, dai agli uomini la gioia. O Nilo, fulcro assoluto dell'Egitto, alzati e fai sentire la tua voce. Quando esci dalla tua caverna, il tuo nome si muta in api. Fai sborgare l'onda dai due vasi che hai nelle mani. Facci dono di te. Vieni in nostro aiuto. O Nilo, fonte di ogni vita. I semi inaridiscono. I fanciulli gridano di fame e i vecchi hanno l'animo in lutto. Noi ti imploriamo. Buonasera cari amici all'ascolto e benvenuti a questo programma nel corso del quale vi accompagniamo in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio con il fiume maestoso, il Nilo. Rimanete quindi in nostra compagnia con questo fiume eterno considerato come fonte di vita inesauribile per l'uomo, l'animale e la pianta e come arteria che dà nascita a molte civiltà. Nella puntata precedente sono state evocate le celebrazioni che organizzavano gli antichi egizi al fine di rendere omaggio al fiume benefattore. È stata anche citata una leggenda legata alla festa della piena del Nilo, che dice che ogni anno veniva scelta una bella e giovane ragazza per essere la fidanzata di Hapi, dio del Nilo. Questa ragazza, vestita da sposa e coperta dai più belli gioielli, veniva gettata viva nel Nilo, e ciò avveniva durante una sontuosa cerimonia. Ora non è stata trovata alcuna prova che dimostri la veridicità di questa leggenda. Sicuramente si tratta di un fatto immaginario, dato che lungo la loro storia Gli antichi egizi non avevano mai presentato un'offerta umana a nessuna divinità, quantunque sia la sua grandezza. Nessun testo e nessuna iscrizione indicano che gli antichi egizi avevano l'abitudine di offrire una giovane ragazza viva al fiume. Queste sono delle storie menzognere, prive di ogni fondamento. Decine di quadri e papiri indicano che questo fiume comportava più di un livello nelle sue piene periodiche. Esse erano a volte moderate, portando con sé benefici immensi, a volte alte, inondando le terre e semendo il terrore, a volte basse, causando carestie disastrose. Peraltro sono stati trovati dei testi che fanno una descrizione dettagliata delle celebrazioni organizzate in onore del Nilo. Nessun testo cita il fatto di offrire in sacrificio una giovane ragazza al fiume. Fino ad oggi sono stati trovati 3 quadri che riportano le pratiche cerimoniali che molto spesso prendevano un aspetto religioso e popolare. Il primo quadro apparteneva a Ramses II, il secondo a suo figlio Meremptah e il terzo a Ramses III. Erano tutti dei sovrani eminenti che facevano parte della 19ª e 20ª dinastia. Erano a capo di un impero imponente che si estendeva in Asia, Iraq e Turchia e che si estendeva anche a sud fino al centro d'Africa. Secondo questi quadri, il re assisteva di persona alle festività che di solito iniziavano con il sacrificio di uccelli e di un vitello bianco per farne offerta. Poi veniva gettato nelle acque del Nilo un messaggio scritto su papiro, che comportava delle preghiere e degli elogi fatti al Nilo, riconoscendo le sue grazie e implorandolo di non interrompere mai i suoi benefici. Sono stati messi alla luce dei testi che comportano delle suppliche fatte al Nilo, in particolare quando le sue piene erano basse. Mai è stato menzionato il fatto di sacrificare una giovane ragazza nel Nilo per supplicarlo. Si crede che la storia della giovane ragazza lanciata viva nel Nilo come sacrificio è una storia leggendaria che ha circolato attraverso i secoli. È un uso metaforico che designa piuttosto l'Egitto intero a cui veniva ogni anno il Nilo al tempo della piena per riempirlo di beni e grazie. Fa notare che la celebrazione della festa della piena del Nilo è rimasta una celebrazione popolare stagionale. Ha persistito durante le diverse ere che si succedevano sull'Egitto, anche quelle islamiche. Le diverse categorie del popolo uscivano durante questa festa per celebrare la lealtà del Nilo. Si usciva accompagnati da strumenti musicali a bordo di battelli, barche e valieri per manifestare la sua grande gioia. I meriti del Nilo sull'Egitto sono innumerevoli. È grazie a lui che gli antichi egizi scoprirono la geometria. Dopo la piena, le acque del Nilo inondavano le terre. Gli antichi egizi erano allora obbligati a ritracciare le frontiere dopo l'abbassamento delle acque. È così che gli antichi egizi furono i primi ad aver posto i principi della scienza delle figure dello spazio che è la geometria. Ed è al Nilo che va il merito di conoscere la scrittura. Sulle sue rive spuntavano i papiri che avevano utilizzato gli antichi egizi per scriverci sopra e registrare la loro storia gloriosa.

وشوف وقلت لقيت جنتي وارتاح واتمتعت بسحر جمالها لو لفيت لو مش هتلاقي مهما تشوف أرض محبة مبلاش فوق مش هتلاقي مهما تشوف أرض محبة مبلاش فوق إلا في مصر وادخلوا هسلمي ادخلوا هأمني ادخلوا هسلمي أولاد مصر أولاد مصر أولاد مصر أولاد مصر لو لفيت الدنيا بحلقة لفيت وتهت في الليدي الغربة وضع وقلت يا ريتني ما كنت سافرت رحلة كانت من أولها ما فيهاش يوم Mit den Tonzeichen war soeben, meine Damen und Herren, 21 Uhr ägyptischer Zeit. Hier ist Radio Kairo mit seinem Programm in deutscher Sprache. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum deutschen Programm von Radio Kairo. Es war soeben 19 Uhr Weltzeit UTC, dies entspricht 21 Uhr ägyptischer Zeit. Hier ist Radio Kairo, der Rundfunk der Arabischen Republik.